Il Sole 24 Ore. Governo Monti, scelta ineludibile. Berlusconi scrive al neo senatore: le auguro buon lavoro nell'interesse del paese. La Lega si sfila, il voto al maxi emendamento sarà l'ultimo atto del carroccio. Il ministro Frattini frena su elezioni anticipate. Il Papa andrà a Cuba, il viaggio in programma per la prossima primavera. Assolto in Cassazione lo spacciatore di Pantani, il fatto non costituisce reato. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione e da Valeria De Rosa. Domani il neo senatore a vita Mario Monti debutta in aula al Senato per partecipare alla seduta dell'Assemblea che dovrà dare il via libera al DDL stabilità. La nomina di Monti a senatore a vita è arrivata ieri sera a sorpresa. Nella notte Berlusconi ha di fatto appoggiato un governo a guida Monti e poco fa gli ha inviato un telegramma di congratulazioni augurandogli buon lavoro. Ma quanto questa mossa sta influenzando l'andamento di Piazza Affari lo chiediamo a Deborah Rosciani. Ben ritrovata Deborah. Sì, buongiorno. Allora, questa mossa aveva tutta l'intenzione di influenzare piuttosto positivamente il mercato che poco fa ha rallentato, ma adesso vedo che riprende di nuovo quota. Piazza Affari, dopo i forti cali di ieri, stamattina è partita bene, è arrivata a guadagnare 3,5 punti grazie al netto riscatto di tutti i titoli, ma di soprattutto il settore bancario, ma anche quello industriale sta andando bene. Unicredit, Banco Popolare e Pirelli sono tutti in rialzo fra il 5 e il 6%. Poi c'è stato un rallentamento che si è avuto in concomitanza con l'esito dell'asta dei bot annuali che si è svolta questa mattina. Il Tesoro ha collocato sul mercato i 5 miliardi che voleva collocare a fronte di una domanda che ha sfiorato i 10 miliardi di euro, però il rendimento è stato di nuovo piuttosto alto, oltre il 6% lordo, e quindi questo ha fatto un po' di nuovo ragionare gli operatori, che ha di nuovo fatto rallentare la borsa, ma adesso, dicevo, riprende quota più 2,25% il FTSE MIB a Milano. Bene anche le altre piazze europee che pure avevano rallentato, più 0,8% per Parigi, più 1,32% per Francoforte, meno 0,09% Londra, che da stamattina rimane un po' più tranquilla. Lo spread fra BTP e Bund stamattina era ripartito male, di nuovo a 570 punti base, gli stessi livelli preoccupanti di ieri, poi è rallentato e ritornato intorno a 520 per risalire intorno a 530. Il rendimento del titolo decennale italiano è stamattina riuscito a scendere al di sotto del 7%, intorno al 6,97%, per riportarsi adesso intorno a quei livelli. Quindi il mercato tenta di ritornare verso una condizione di normalità, però effettivamente ancora un pochino di tensione sul mercato obbligazionario rimane in attesa di una definizione politica molto più chiara. Valeria. Grazie a Deborah Rosciani. Questa mattina la Commissione europea ha tagliato le stime di crescita per il vecchio continente, un taglio molto pesante anche per l'Italia, che il prossimo anno avrà una crescita economica quasi azzerata. Anna Rita D'Ambrosio. Sì Valeria, partiamo dalle ultime novità che sono le reazioni che arrivano dalla Gran Bretagna e soprattutto dalla Germania. Il premier conservatore britannico David Cameron ha detto che l'Italia rappresenta un pericolo concreto e attuale per l'Eurozona ed il momento della verità si sta avvicinando, mentre la Germania, per bocca di un portavoce della cancelliera Angela Merkel, ha detto che la Germania si opporrà a qualsiasi decisione di spaccare l'area euro, una scelta che si rivelerebbe mortale per un paese esportatore come la Germania. Questo è stato detto. Come tu dicevi, questa mattina la giornata si era aperta con la conferenza stampa del presidente della Commissione, responsabile economico della Commissione europea, Olli Rehn, che ha presentato le previsioni economiche fino al 2013. Ebbene, le previsioni sono delle previsioni sicuramente non positive. Quanto all'Italia, è chiaro che solo un pacchetto di riforme strutturali ampio e comprensivo può rilanciare nuovamente il paese, ha ribadito Olli Rehn, dicendo che è necessario intervenire sul lavoro fisco e dipendenti della pubblica amministrazione. Quanto alla lettera del governo italiano, Rehn ha detto che tace su alcuni punti importanti e che per questo si è visto costretto a chiedere in un questionario inviato all'Italia ulteriori chiarimenti. La ripresa economica dell'area euro si è arrestata, avverte Rehn, la crescita del PIL nella zona euro sarà limitata allo 0,5% nel 2012, con un ritorno alla ripresa nel 2013 all'1,3%. La modesta ripresa dell'Italia si è, dopo la crisi del 2008-2009, si è fermata nel secondo semestre del 2011 e la crescita resterà limitata, dice l'Europa. Che cosa pesa? Pesa sulle prospettive di crescita la forte crescita, il forte rialzo dello spread e dunque la situazione delle banche italiane. Per il momento è tutto. Grazie, grazie ad Anna Rita D'Ambrosio. E torniamo appunto nel nostro paese a fare il punto su quanto sta accadendo. L'esecutivo a guida Monti sembrerebbe ormai cosa fatta, ma la maggioranza e anche l'opposizione su questo non è compatta. In diretta con noi la collega Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Dopo un vertice notturno di scontri e spaccature all'interno della maggioranza, il premier Silvio Berlusconi convoca lo Stato Maggiore del PDL a Palazzo Grazioli e il vertice questa volta appena iniziato. Berlusconi ha ceduto ieri notte sul nome di Mario Monti, scelta ineludibile, ha detto, anche per non bruciare Angelino Alfano. Ma il PDL è spaccato e si stanno valutando varie opzioni per trovare una soluzione condivisa. Si convocherà probabilmente un ufficio di presidenza o anche addirittura la direzione nazionale del partito. Gli scontenti potrebbero dare l'appoggio esterno ad un eventuale governo di larghe intese e all'interno invece del partito del premier c'è chi plaude alla scelta di Monti. Sentiamo il governatore della Lombardia Roberto Formigoni, critico nei giorni scorsi con il premier. In questo momento è la realtà che dobbiamo obbedire, mettendo in campo un governo tecnico-politico nel quale convergono forze diverse, ma dobbiamo uscire salvaguardando il bipolarismo. Io dico anche salvaguardando l'alleanza con la Lega. Mi auguro che anche la Lega possa riflettere positivamente su questa proposta. Ma i falchi del PDL non ci stanno. Giuliano Ferrara, Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri, giornalisti vicini al premier, vogliono elezioni subito e manifesteranno sabato a Milano. Si va quindi verso un governo tecnico guidato da Mario Monti, appoggiato dalla maggioranza del PDL, PD e UDC, contraria alla Lega che passa all'opposizione perché chiede di votare subito, entro 45 giorni, dice Maroni. Il paese potrebbe reggere. Contraria anche l'IDV di Antonio Di Pietro. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie, grazie Elisabetta Fiorito, lo sentivate anche nel collegamento della nostra collega. Nella maggioranza è forte e consistente una fronda che vuole andare a elezioni subito. Poco fa abbiamo sentito il ministro delle infrastrutture Altero Matteoli. Io ritengo che con il governo tecnico, cioè non è tanto il governo tecnico, ma come nasce, cioè da un accordo Partito Democratico, Popolo della Libertà, possibile che dopo 3 anni e mezzo con la politica che si è incancrenita, dove c'è stato di tutto, dove Berlusconi è stato offeso, è stato messo in discussione in tutti i settori, come politico, come uomo di governo, come imprenditore, nella sua vita privata, eccetera, all'improvviso si mette insieme un governo e insieme si risolvono i problemi del paese. E lei ritiene che il paese, nelle condizioni in cui è, possa permettersi di aspettare i 45 giorni per le urne? Questa mi pare proprio un problema marginale. Un governo resterebbe comunque in carica e potrebbe fare quelle cose che sono scritte nella famosa lettera di Berlusconi all'Europa. Molte perplessità su elezioni anticipate sono state espresse poco fa anche dal ministro Franco Frattini, mentre restano nettamente contrari a elezioni anticipate gli industriali. Sentiamo che cosa ha detto la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia questa mattina al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Noi pensiamo che in questo momento il Paese è in una situazione di grande difficoltà, è necessario avere un governo ad ampia maggioranza possibile che vari quelle riforme essenziali che ci sono state chieste dalla Commissione europea, dal Fondo monetario, dalla Banca centrale europea, non farle con immediatezza ma come dire, avere una campagna elettorale di alcuni mesi in questa situazione di grave crisi finanziaria del Paese sarebbe un fatto molto negativo. Già. E allora però dobbiamo anche parlare di quali sono i contenuti di questo maxi emendamento che appunto è arrivato in Parlamento. Vediamo subito nella scheda della nostra collega Maria Luisa Pezzari. Dalla stretta sugli enti locali all'aumento dell'età pensionabile, passando per gli incentivi all'assunzione di giovani e donne, dismissioni, defiscalizzazioni, liberalizzazione delle professioni, riforma del processo civile. Niente norme sui licenziamenti. Eccole le misure anticrisi del maxi emendamento emendamento alla legge di stabilità dal 2013, prima novità, anche gli enti locali dovranno contribuire alla riduzione del debito pubblico. Ogni regione, comune e provincia avrà un obiettivo annuale da raggiungere e sarà tenuta a rispettarlo. Pena le sanzioni previste per chi sfora il patto di stabilità, contingentamento delle spese correnti e stop alle assunzioni. Dal 2026, l'altra novità, salirà a 67 anni l'età minima per le pensioni di vecchiaia, sia per gli uomini che per le donne. Previste dismissioni degli immobili pubblici, il 20% almeno riguarderà carceri inutilizzate e caserme. Saranno tutti individuati con un decreto da emanare entro aprile 2012. Dismissione anche di terreni agricoli di proprietà dello Stato. Ribadita la mobilità per i dipendenti pubblici ritenuti in soprannumero, in caso di mancata ricollocazione scatterà la cassa integrazione pari all'80% dello stipendio, per un massimo di 2 anni. Previsto dal 2012 l'azzeramento dei contributi sugli apprendisti per i primi 3 anni di contratto, poi l'aliquota sarà del 10%. Introdotte inoltre agevolazioni sui contratti di inserimento per le donne, facilitazioni per part-time e telelavoro. Per i professionisti arriva lo stop alle tariffe minime e al divieto di pubblicità, insieme al via libera per la costituzione di società di capitale. Il pacchetto infrastrutture prevede infine la defiscalizzazione per la realizzazione di nuove autostrade. E per diminuire il contenzioso civile pendente, nei processi davanti alla Cassazione e alle corti d'appello in corso da oltre 2 anni, le parti saranno chiamate a confermare la persistenza dell'interesse. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Qualunque cosa succeda, l'agenda comunque nei prossimi giorni è molto fitta. Il maxi emendamento alla legge di stabilità è stato presentato, lo ricordiamo, ieri al Senato dal ministro Tremonti. Il presidente Schifani si è impegnato a farlo approvare entro domani, quindi passerà alla Camera, dove il presidente Fini vuole farlo approvare entro domenica. Qualunque cosa accada, dicevamo, siamo in collegamento telefonico con Stefano Fogli, editorialista del Sole 24 Ore, al quale do il buongiorno e al quale chiedo subito quante probabilità ha questo governo Monti di essere varato a questo punto entro domenica, al più tardi lunedì. Sì, deve essere varato al più presto, è stato accolto direi bene da un sistema politico che era sgomento dopo le ore drammatiche vissute sui mercati nei primi giorni della settimana, e questo naturalmente è un viatico importante. L'impegno del Presidente della Repubblica è stato estremo in queste ore e naturalmente questo conta molto per tenere unito e coeso un sistema politico che non ha dato negli ultimi anni certamente una buona prova di sé. Naturalmente le insidie esistono e ci sono delle contraddizioni sia nel centrodestra che nel centrosinistra, ci sono delle spinte che vanno in una direzione opposta, da Di Pietro, dalla Lega, Vendola non è in Parlamento però continua anche lui a chiedere le elezioni anticipate, quindi ci sono contraddizioni che io non voglio sottovalutare. Ecco, proprio a questo proposito ti chiedo di meglio entrare in questo argomento, cioè si potrebbe creare una maggioranza trasversale piuttosto particolare? La maggioranza che si delinea è il PDL, se Berlusconi terrà la posizione che ha definito assunta, di sera, certo. I centristi più un certo numero di transfughi che hanno abbandonato nei giorni scorsi il PDL e il Partito Democratico. Questa è una maggioranza interessante, trasversale, e mi domando quanto sia in grado di reggere. È chiaro che ci auguriamo tutti che regga fino al 2013 e dia a Monti la spinta necessaria per affrontare la crisi che stiamo attraversando, però certamente esistono queste forze che rimangono ai margini o addirittura che sono ostili a questo esperimento, che hanno una capacità di pressione anche sul piano sociale che non si può ignorare. Quindi diciamo che è una prova di maturità per tutto il sistema politico, per il centrodestra e per il centrosinistra. Se questa prova verrà superata, noi avremo un bipolarismo completamente diverso da quello a cui siamo stati abituati in questi anni, avremo una sinistra realmente riformista e una destra matura e anche, diciamo, affrancata dalla lunga stagione di Berlusconi. Però è una prova di grande difficoltà e oggi è difficile dire se sarà superata. Alle 13:18 minuti, seconda parte di GR24. Nella prima parte abbiamo parlato, ampio spazio ovviamente, alla politica. Monti, scelta ineludibile, questa è la posizione di Berlusconi arrivata nella notte. Il Presidente del Consiglio ha scritto al neo senatore augurando buon lavoro nell'interesse del Paese. Poi ancora la Lega che si sfila, il voto al maxiemendamento sarà l'ultimo atto del carroccio, mentre il Ministro Frattini frena su elezioni anticipate. E continuiamo a parlare di politica, continuiamo perché è stato molto importante quanto fatto dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, un'azione che è stata sì evidente a tutti noi, ma ha lavorato anche molto nell'ombra. Lo facciamo con il collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole, che saluto. Buongiorno Dino, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. E allora, un'azione molto importante in questo momento, il Quirinale ha, come dire, preso in mano le redini del Paese. Direi proprio di sì, la situazione è talmente seria che ha richiesto un'assunzione di responsabilità al massimo livello istituzionale. La nota, anzi la dichiarazione di ieri con la quale il Capo dello Stato ha di fatto tranquillizzato i mercati, sulla decisione del Presidente del Consiglio, quando ha detto che quelle dimissioni non sono in discussione, è una chiarissima assunzione di responsabilità. E in questo momento Giorgio Napolitano in Europa e direi anche nel mondo è il punto di riferimento anche nel vuoto politico determinato dalla crisi di governo, e dunque è ancor più rilevante il suo ruolo istituzionale in questo momento. Quindi insomma, è stato un tentativo, devo dire, riuscito di porre un argine comunque dei punti fermi, certo, a una situazione che rischiava di essere assolutamente incontrollabile. Dino, la nomina senatore di Mario Monti non solo, diciamo così, dà l'avallo del Presidente a un governo guidato dall'economista, ma dà anche un'accelerazione notevole nei tempi e di fatto fa sì che questo governo si possa dire anche, diciamo, anche politico, oltre che tecnico. Senz'altro sì, anche se ci sono due piani che vanno distinti. Da un lato l'accelerazione è sull'approvazione entro la fine della settimana della legge di stabilità, e questa è una precisa indicazione che Napolitano ha rivolto ai Presidenti di Camera e Senato, e su questo non si discute, si approverà la legge di stabilità entro la fine della settimana. La nomina di Mario Monti è evidentemente un segnale, il segnale che la tesi in base alla quale un governo tecnico guidato da un tecnico non fosse in grado di gestire una situazione del genere viene smontata nel momento in cui da tecnico Mario Monti diventa anche una figura istituzionale. Ma queste sono, diciamo, sottigliezze. Quello sì, che conta è che già ieri, con la designazione di fatto in pectore di Mario Monti, Giorgio Napolitano ha lasciato intendere come la vede. Grazie a Dino Pesole in collegamento con noi da Roma. E prima di continuare con il nostro GR, notizia che stanno battendo a più riprese le agenzie, una notizia di cronaca giudiziaria: i finanzieri di Milano stanno eseguendo una serie di perquisizioni anche a carico di Massimo Ponsellini, l'ex presidente della Banca Popolare di Milano, nell'ambito di un'inchiesta dei PM Pellicano e Clerici per i reati di ostacolo all'attività di vigilanza di Banca Italia e associazione per delinquere. La seconda parte di GR, noi ci occupiamo anche del Papa. Nei giorni scorsi, nunzi in Messico e a Cuba sono stati incaricati di informare le più alte cariche religiose e civili dei due paesi che il pontefice sta studiando un progetto concreto di visita. Lo ha comunicato il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi. Il Papa è stato in Brasile, ma i paesi dell'America Latina di lingua spagnola desideravano un viaggio tutto per loro, e il Messico è il più popoloso di essi. Il maltempo che ha lasciato il nord Italia si è spostato verso il sud. Un violento nubifragio ha colpito Palermo. Decine di strade dal centro cittadino alla periferia hanno subito allagamenti, con le vie trasformate in veri e propri torrenti in piena. I disagi più grandi si sono registrati nella zona di Viale Regione Siciliana, vicino alla rotonda di Viale Leonardo da Vinci, e lungo il sottopassaggio di Viale Michelangelo, dove molti automobilisti sono rimasti intrappolati. Al centro la situazione è in miglioramento, mentre si contano i danni ingenti dell'alluvione che nei giorni scorsi ha colpito anche l'isola d'Elba. Legambiente denuncia: il nubifragio ha interessato gli stessi luoghi del 2002. Al microfono di Katia Caramelli, Umberto Mazzantini di Legambiente Arcipelago. La zona che è andata più sott'acqua si chiama Stagno e l'altra si chiama Foce, insomma. Sono zone dove non si doveva costruire. Ora, quello che si è fatto negli anni 50-60 era comprensibile, insomma, non... ora queste cose le sappiamo benissimo. Quello che è stato fatto dagli anni 80 in poi è un vero e proprio disastro ambientale preparato. Fra l'altro è vero che gran parte di quello che si è costruito grazie a strumenti urbanistici regolari, ma è anche vero che il piano edilizio di campo è durato 40 anni e che il comune di Campo Elba è uno dei comuni toscani, ma forse nazionali, con la più alta percentuale di abusi edilizi, insomma. Per quanto riguarda l'isola d'Elba, sono omicidio colposo e disastro colposo le ipotesi di reato sulle quali sta lavorando la procura di Livorno dopo l'alluvione che lunedì ha proprio sconvolto campo nell'Elba. E adesso il nostro appuntamento con il paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Fra una lezione e l'altra sfrecciava in Porsche tra Piazza delle Erbe e il Caffè Pedrocchi a Padova. Peccato che a fronte di cotanta auto lo studente padovano fosse contemporaneamente esentato dal pagamento delle tasse grazie alla dichiarazione dei redditi irrisoria presentata da papà. Segnalato da alcuni studenti amici, si fa per dire, è stato pizzicato dalla Guardia di Finanza. Ma è solo uno dei 280.000 studenti di Padova i cui genitori dichiaravano il falso per avere esenzioni e sconti sulle tasse universitarie. Sono stati così recuperati a tassazione 2 milioni di euro. E Padova rappresenta la regola, non l'eccezione. Come dire, per i contribuenti onesti, oltre al danno di pagare le tasse anche per gli evasori, la beffa di dover pagare loro anche i servizi pubblici. A Roma l'Agenzia delle Entrate ha puntato invece l'attenzione sui buoni libro che il Comune paga agli alunni delle scuole medie e superiori con un reddito familiare inferiore ai 10.600 euro. Il caso più clamoroso è quello di un liceale che otteneva i testi scolastici gratis grazie alla scarna busta paga del padre, appena 10.500 di imponibile lordo all'anno. Padre che però aveva appena acquistato una Porsche Cayenne al prezzo di 80.000 euro e per l'estate aveva noleggiato una barca a vela di 12 metri con skipper a bordo. I libri per il figlio però li pretendeva gratis. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Assolto perché il fatto non costituisce reato, così la Cassazione ha prosciolto Fabio Carlino dall'accusa di aver provocato con la vendita di cocaina purissima la morte per overdose di Marco Pantani. È come una ferita che si riapre e che riprende a far male. La Cassazione proscioglie perché il fatto non costituisce reato Fabio Carlino dall'accusa di aver provocato con la vendita di cocaina la morte per overdose di Marco Pantani, avvenuta il 14 febbraio 2004. In primo e secondo grado Carlino era stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre alle spese di risarcimento in favore dei familiari del campione. Perché questo colpo di scena? Nella requisitoria il sostituto procuratore della Cassazione, Oscar Cedrangolo, ha espresso delle riserve rispetto ai precedenti verdetti scaturiti, secondo il procuratore, da un clima di eccessiva spettacolarizzazione del processo, troppa emotività quindi, che alla fine avrebbe pesato sulla serenità di giudizio verso gli indagati. Una motivazione molto vicina alla realtà, ma che farà discutere, perché la morte di Marco Pantani, avvenuta a Rimini in una grigia stanza d'albergo lontano da amici e familiari, è rimasta come una ferita mai rimarginata nel cuore dei tantissimi sostenitori del campione, scalatore di indubbia classe, trionfatore del Giro del Tour nel 98, ma anche uomo discusso, finito in quell'ampia zona d'ombra del doping che gli costò la famosa squalifica nel Giro del 99 dopo la tappa di Madonna di Campiglio. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta da Valeria De Rosa, in regia Paolo Corleoni. La prossima alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.